Europa 24. Buongiorno da Gigi Donelli. L'Europa che riparte inevitabilmente dall'Ucraina, ancora nelle ultime ore un nuovo allarme che arriva dall'UE e dalla NATO. UE e NATO vogliono un negoziato pacifico della crisi in Ucraina, crisi che è nata dalle azioni della Russia, così dice Jens Stoltenberg, attualmente segretario generale della NATO, già primo ministro norvegese, arrivando questa mattina al Consiglio Difesa dell'Unione Europea. Dice: faccio appello all'accordo di Minsk, l'accordo che il 6 settembre sembrava avere aperto la strada della pacificazione, ma poi è stato ripetutamente violato, e dunque faccio appello all'accordo di Minsk e a Mosca perché faccia un passo indietro e fermi i separatisti. Tutto questo quando viene confermato dunque dalle strutture della NATO un evidente e grave rafforzamento militare delle forze della Federazione Russa alla frontiera con l'Ucraina. Insomma, un momento davvero critico su questo fronte. E ieri naturalmente era stato al centro dell'incontro, il primo incontro della politica estera europea della nuova commissione a guida Mogherini. Oggi il tema viene ripreso, come vedete, con ulteriore gravità dal Consiglio di Difesa, quindi l'organismo che coordina le politiche di difesa dei 28 membri dell'Unione. Altro tema caldo, anche se di diversa natura, riguarda il bilancio. La Commissione presenterà nei prossimi giorni una nuova proposta di bilancio per il 2015 e lavorerà con tutte le parti per arrivare a un accordo entro fine anno. Lo ha assicurato questa mattina la vicepresidente della Commissione UE, Kristalina Georgieva, commentando l'esito di una trattativa che si sapeva difficile, che ora sentiamo nel servizio come è andata finora. A mezzanotte e un minuto hanno gettato la spugna. Un portavoce della Commissione Bilancio del Parlamento Europeo ha annunciato che i governi dell'Unione e il Parlamento non sono riusciti a trovare un accordo sul budget 2015. Ora la Commissione dovrà presentare un nuovo progetto. Il disaccordo riguarda soprattutto 30 miliardi di passivo 2014 e il modo di farvi fronte. La proposta bocciata prevedeva un aumento del 24,5% dei fondi per ricerca ed educazione e un aumento complessivo del budget del 3,3%. Il Parlamento reclama da parte sua 146,4 miliardi di euro, in aumento dell'8,1 rispetto all'anno precedente. Senza accordo, la Commissione dovrà presentare ora un nuovo progetto di bilancio che sarà oggetto di un nuovo negoziato in vista del voto del Parlamento in sede plenaria il 17 dicembre. Se neanche per allora si dovesse arrivare a un'intesa, entrerebbe in vigore una sorta di esercizio provvisorio. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto arriva un appello dal nuovo commissario europeo responsabile degli aiuti umanitari, riguarda Ebola. Dice: l'epidemia di Ebola richiede un'azione collettiva e coordinata per essere fermata e per tenere, aggiunge al sicuro, i nostri cittadini in Europa. Dice: nessuno dei paesi colpiti può fronteggiare la malattia da solo, bisogna inviare urgentemente sul campo più personale epidemiologico, equipaggiamenti e laboratori immobili, servono oggi, non domani. Questo è di fatto la prima uscita di Christos Stylianides, nuovo commissario europeo responsabile degli aiuti umanitari. Vi ricordo tra l'altro che l'Unione Europea resta il primo donatore al mondo di aiuti appunto per i paesi in via di sviluppo e i paesi che affrontano delle crisi come quella di Ebola. E con questo è tutto per questa edizione di Europa 24, che naturalmente torna domani come di consueto poco dopo le 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.